chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaida. Dalla prospettiva del cane, dalla prospettiva del gatto, dalla prospettiva dell'elefante. Oggi scommetti che ti convinco? Su che cosa? Su tutto, amore. Su qualsiasi cosa tu voglia. Su qualsiasi cosa. Convincere me e chiunque altro. Perché sono così persuasiva, è giusto dire persuasiva? Persuasiva, sì, giusto. Allora, io sono rimasta molto colpita da un articolo di Focus di questo mese che titola "Scommetti che ti convinco". Uh-huh. Avere ragione non basta, esibire prove scientifiche neanche, per far cambiare idea a certe persone servono ascolto, intelligenza e qualche strategia. E sentiamo, è interessante questa cosa qua. Tra l'altro tu mi avevi segnalato questo articolo, hai dato un'occhiata, ci sono un sacco di paralleli con i nostri amici a quattro zampe. Anche con Think Dog, non dimentichiamolo. Eh sì, cioè... no, perché è tutta una questione di prospettiva, no? L'articolo comincia con... convincere qualcuno ad adottare il nostro punto di vista. Sappiamo che, appunto, anche chiedimi se sono felice è il punto di vista del cane, no? Quindi, infatti, parliamo di punti di vista che non sono solamente umani, degli esseri umani, ma anche quando si dice ci si deve chiedimi se sono felice, il mondo dalla prospettiva del cane, e mettersi, esatto, sempre nei panni di quell'altro. Esatto, esatto. Perché quando il cane fa qualcosa che tu desideri che faccia e non lo fa, c'è un motivo, no? C'è un suo, certo, punto di vista che non viene indagato spesso, no? E uno dice adesso lo picchio, gli urlo addosso, uso la forza, così fa quello che voglio io. Assolutamente. E a volte potrebbe anche funzionare, povero cane. Tante altre volte invece questo non funziona. Questo rumore che avete sentito è un rumore strano, ma sta svenendo il microfono di Vaira. Esatto. Allora, bando alle ciance, io ho letto in questo articolo che l'articolo dice che l'uomo sia un conservatore cognitivo. Uh-huh. Ma i cani e gli animali si comportano di conseguenza? Assolutamente sì, essendo degli animali sociali tendono, ma proprio per motivo di sopravvivenza, no? Di adattamento, tendono a rimanere sulle proprie posizioni. Esattamente come gli uomini. Di sicurezza, sì. Cioè il cambiamento ci rende spesso paurosi, apprensivi, ci chiediamo se facciamo bene, no, a cambiare. Mm-hmm. Questo vale anche per le idee. E quindi fondamentalmente 10 suggerimenti che adesso questo articolo ci darà per convincere anche le persone più ostiche proprio a cambiare, sì, idea. Fra l'altro dicono che gli scienziati in realtà anche gli scienziati rimangono molto fermi quando loro hanno una scoperta e tendono, sì, a volerla abbracciare e non mollarla mai. Esattamente. Anche se poi negli anni viene scoperto che invece devono modificare qualcosa. Difatti, esatto, si dice che la scienza vada per salti. Esatto. Quindi, allora, per far cambiare idea a una persona bisogna assolutamente fare leva sulle emozioni e sull'istinto. E se non sbaglio, però, anche tu, Angelo, hai dimostrato in questi anni che con gli animali bisogna fare esattamente la stessa cosa. Assolutamente. Tra l'altro, su questo articolo c'è una frase che mi ha colpito particolarmente, proprio in apertura. Lui dice: quando qualcuno è particolarmente resistente, occorre chiederci, quindi chiederci significa metterci noi in gioco. Non è che per caso siamo noi, con il nostro tentativo di fargli cambiare idea, gli artefici del suo irrigidimento? Esatto. Cioè, capisci? È proprio il fatto che tu cerchi di far cambiare idea a qualcuno che quello comincia a non avere più dubbi, perché deve prima di tutto sostenere e mantenere la propria posizione per dimostrare che lui ha fatto una scelta valida, no? Esatto. A se stesso. Però qua mi viene in mente una cosa. Tu hai presente quando i cani tirano al guinzaglio, no? Mm-hmm. I cani tirano al guinzaglio nella stragrande maggioranza dei casi perché lui tira, il guinzaglio si tende, e noi tiriamo dalla parte opposta. E più noi tiriamo, più quello tira. Come quando spingi qualcuno e questo resiste, no? È un principio che si usa, sì, anche nel judo. Quando ho fatto un judo a 11 anni, mio maestro mi diceva: spingi da una parte e fa lo sgambetto dall'altra. E certo. Così che una persona, no, si inciampi con la sua stessa forza. Il cane fa la stessa cosa per un meccanismo biologico che si chiama tigmotassia negativa. Tigmotassia negativa. Tigmotassia negativa. È una tassia, cioè una reazione uguale, contraria alla nostra attrazione, allo spingere. E la stessa cosa però succede anche nella mente quando vogliamo far cambiare idea a qualcuno. Quindi un po' come la legge quella: immergi un corpo nell'acqua, riceverai una spinta uguale, contraria, pari al anche peso del corpo immerso. Se l'ho anche detta giusta, ragazzi, segnatevela perché non la ripeto. Al peso del volume del liquido spostato. Però andiamo avanti volume. Sul nostro articolo. Quindi, scusami, anche i cani fanno fanno dei ragionamenti? Perché qui si parla, nell'articolo si parla fra uomini, no? Fra esseri umani. Bravissima. Allora, il discorso dei cani che cos'è? Non è che i cani fanno dei ragionamenti, assolutamente. Sì, hanno un pensiero, sono dotati di pensiero anche loro. Però quante volte ci troviamo noi a dover convincere il nostro cane a tornare al richiamo, a smettere di tirare il guinzaglio, a non essere aggressivo con gli altri cani, a non avere paura dei botti, a non avere paura degli estranei, a non scavare le buche in giardino, a non inseguire il gatto del vicino. Tante volte noi vorremmo persuadere, convincere il nostro cane. Allora, a che cosa dobbiamo ricorrere? Ci può aiutare questo articolo, perché spesso e volentieri la psicologia umana è simile a quella del cane, quindi ci può aiutare. Si dice che l'uomo è restio a ragionare in modo logico. Quindi tu non riesci a far cambiare idea a un'altra persona con la logica, ci vogliono altre strategie che adesso elencheremo. E tu mi dici che per gli animali e i cani in modo specifico è uguale, cioè non bisogna andare per logica? No, bisogna usare altre strategie, tra l'altro io comincerei ad elencarle. Perché... Vabbè, la prima strategia, che c'è anche uno slogan che io vedo da 2 anni, un cane che non ascolta è un cane che non è ascoltato. Già, da dove l'hai presa questa frase? Ci sono tante t-shirt di Think Dog. Allora, la prima strategia è ascoltare. Perché qui appunto nell'articolo dicono appunto che bisogna mostrare disponibilità verso l'interlocutore e dargli modo di esprimere le proprie ragioni. Questo ammorbidisce. Mostrandosi anche però curiosi e rispettosi delle idee dell'altro. Assolutamente sì, perché prima di farti capire devi capire, no? Oh, assolutamente sì, perché sennò, se non capisci, come fai a farti capire? E poi l'ascolto ammorbidisce, cioè quando noi ce ne accorgiamo subito, quando viene qualcuno che ci vuole far cambiare idea e ci parla addosso tutto il tempo senza neanche lasciarci parlare, significa che non è genuinamente interessato al nostro punto di vista, alla nostra persona, mentre qualcuno che ci ascolta, già parlando, già quando siamo noi stessi a parlare, possiamo mettere in dubbio le nostre tesi, perché sappiamo che c'è libertà. E appunto, tornando al cane, un cane che non ascolta è un cane che non è ascoltato. Che cosa vuol dire? Va ascoltato nei suoi bisogni, nelle motivazioni, perché si comporta in quel modo, no? Perché non è così casuale. Difatti, un'altra cosa interessante dice: ci vuole assolutamente connessione emotiva. Chi avvalora un'opinione irrazionale è mosso dalle emozioni più che dal ragionamento. Ecco. Quindi eri distratto, vai. Ero distratto, perché ci dicono. Cioè, il regista che sta facendo un balletto la nostra grazia. Amore, non è questo, il fatto che manca meno di un minuto. Qua, questo articolo è troppo interessante per discutere. Chi ha detto? Allora, facciamo così, cosa facciamo? Un consiglio sono 10, un consiglio a settimana? per esempio, ma qua tu parlavi di emozioni, no? Il fatto di essere in contatto con le emozioni dell'altro, giusto? Ok, ecco, la stessa cosa si fa con il cane, quindi la prima cosa che noi dobbiamo fare con un cane per fargli cambiare idea su qualcosa, no? Per convincerlo a fare qualcosa, è leggere le sue emozioni attraverso la postura, la coda, l'espressione facciale, il modo in cui respira, il tono muscolare, come si muove, via dicendo. E poi ci sono altri consigli molto interessanti. Poi ce ne sono altri 9, ragazzi, però a questo punto, visto che sono molto interessanti, per adesso fate un attimo una pausa e poi surprise. A tra poco. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E anche oggi abbiamo una nostra supposta di saggezza. Con le buone si ottiene tutto. Ecco. E con le buone. Perché a proposito di quello che dicevamo prima. Con le buone si ottiene tutto. Se vuoi far cambiare idea a qualcuno, non serve la forza, anzi è controproducente, come sempre diciamo con i cani. Quindi un bel suppostone a tutti quelli che usano le maniere forti, l'aggressività, la violenza, gli strattoni. Intanto vedo per strada gente che strattona il cane, ma gente che urla ad altra gente. Insomma, con le buone invece si tiene tutto. Poi scusate, apro e chiudo una parentesi, questa roba vale per tutti, non solamente per il cane, vale proprio nella vita quotidiana. E quindi questo gran suppostone a tutti gli aggressivi in ascolto. Supposta del giorno, perché blister della pillola. Allora, invece passiamo adesso a un argomento che a me fa molto male, molto soffrire, perché siamo al telefono con Giuseppe Fatone, che dal comune di Cerignola. Giuseppe, ci sei? Sì, ci sono. Giuseppe. Sei uno di quelle anime buone che si sta prendendo carico e cura di un sacco di cani abbandonati, feriti, in condizioni disastrose, vero? Certo. Quindi da una regione che è quella della Puglia, che ha tantissimo da offrire, purtroppo ci sono storie di ordinaria follia. E che purtroppo, adesso che mi viene in mente, quest'estate, quando abbiamo fatto la classifica delle regioni che avevano il bollino nero, purtroppo, perché anch'io sono di origini pugliesi, la Puglia è la peggiore, è quella che tratta peggio tutti gli animali, o anche ci sono carini... termini di abbandono. Sì, in termini di abbandono. Ma quindi, allora, cominciamo da quello di cui si occupa in questo momento. Giuseppe, c'è stato un sequestro di un canile che era in condizioni pietose, tali per cui, giusto per farvi un esempio, topi giganteschi in canile che prendevano i cuccioli appena nati e se li portavano via. Quindi quello che sta facendo Giuseppe insieme ad altre persone in termini di volontariato, di farsi, scusa Rosita, un culo così tutto il giorno, sì, infatti, è quello di aiutare questi cani di canile. Quindi raccontaci un po' che cos'è che hai trovato. Intanto, scusa, di quanti cani stiamo parlando, Giuseppe? Allora, in questo momento, il momento in cui abbiamo messo piede all'interno del canile c'erano 232 cani. 232. Cosa che praticamente la vecchia gestione dichiarava avere 400 cani. Ah, ecco, perché questo poi è un vecchio trucco, perché sì, se io dichiaro di avere più cani, il comune mi dà più soldi, giusto? Certo. Quindi in realtà c'erano soltanto 232, il comune ci hai raccontato che il canile prendeva 14.000 euro al mese per la gestione di questo canile. Certo. E invece cittadini di Cerignola, mi sembra sia il canile, giusto? Sì. Ecco, cittadini di Cerignola, siete stati fottuti, perché 14.000 euro in realtà non sono stati utilizzati, perché Giuseppe ha trovato in questo canile qualcosa di raccapricciante, insomma, c'erano cani che non mangiavano neanche. Raccontaci un po'. No. Allora, qui praticamente appena ho messo piede mi sembrava l'inferno, lo è tuttora, solo che diciamo adesso stiamo passando un po' nel purgatorio, se vogliamo utilizzare questa metafora. Sì, adesso praticamente i cani mangiano regolarmente tutti i giorni, cosa che prima non accadeva. C'erano due extracomunitari che praticamente riempivano, è presente quei ciotoloni, quei bidoni per la raccolta delle olive? Sì, certo. Praticamente tagliati a metà, riempivano i croccantini dentro questi bidoni. Questi contenitori. E mangiavano tipo una volta ogni due giorni, però cosa molto importante, se capitava che diciamo tipo la domenica dovevano mangiare perché erano passati due giorni, la domenica gli operai non lavoravano, quindi i cani mangiavano il lunedì, ed erano sabato, domenica e lunedì, quindi tre giorni senza cibo, senza mangiare. Poi posso immaginare che se mangiavano tutti quanti da lì dentro, alcuni cani arrivavano lì a mangiare, altri no, magari qualche complicazione di risse o cose del genere. Certo, senza considerare il fatto anche dei topi. I topi adesso entrano ed escono dalle ciotole di croccantini come se niente fosse, cioè ordinaria amministrazione proprio. Ecco, postiamo qualche foto sulle nostre pagine Facebook di Rosetta, così che gli ascoltatori possano capire in quali condizioni si trovava questo canile quando Giuseppe ci è entrato insieme. Io vorrei che le persone di tutto il mondo, ma in questo caso faccio appello veramente a tutta la Puglia, avessero voglia di mettersi assieme e di togliersi questa macchia di peggior regione nei confronti dei cani, dell'abbandono e del modo in cui tenere i canini, perché ci sono tantissime persone come te, Giuseppe, che veramente si danno tanto da fare, che dopo il lavoro, tante ore di lavoro, dedicano veramente tutto il resto del tempo a salvare questi animali. Esattamente. Quindi io spero che se c'è qualcuno giù in Puglia che ci sta ascoltando abbia voglia di... Noi abbiamo urgente bisogno di volontari, perché praticamente il canile è strutturato in due zone, non è un ambiente unico. Ah, vedi. Quindi è difficile anche in termini di pulizia, perché praticamente ci sono dei box dove per entrarci tu devi passare altri due box con... cioè praticamente due box pieni di cani per arrivare al... Ma figurati, insomma c'è un problema infrastrutturale, sì, strutturato, certo. O di organizzazione, certo. Ovviamente anche economico. Allora io vorrei fare una cosa, adesso ci abbiamo in linea anche il medico della ASL, credo. Pronto? Sì, sì, l'ascolto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ha sentito fino adesso quello che ci ha raccontato Giuseppe? Ma credo che poi voi vi conoscete con Giuseppe Fatone? Sì, sì, io... Sì, ci conosciamo. Ecco, allora, solo che è caduta la linea e non ho sentito cosa ha detto. Allora, ci stava descrivendo le condizioni fattiscenti, no, di questo canile, al che chiunque, no, riscontri questa cosa si chiede: ma l'ASL dov'era? No? E allora io ho detto: chiamiamoli quelli dell'ASL, che almeno ci spiegano che cos'è che è successo. Allora, è una situazione molto complessa. Io cercherò di essere abbastanza sintetico. Nel 2007 sì. Nasce il canile, questo rifugio, gestito dall'associazione APAC. APAC. Nel 2009 mm-hmm. io revoco le autorizzazioni sanitarie. Oh, vedi che la sia c'era. Il 26-5 del 97, confermato dopo una riunione avuto con il sindaco, il 4-11-97. Io revoco le autorizzazioni sanitari per le gravi carenze strutturali della struttura e per il numero in esubero dei cani ricoverati rispetto alle autorizzazioni. Certo. Nel 2009 il sindaco fa un'ordinanza sindacale in cui dispone che tutti i randaggi presenti nel territorio comunale siano accavati e ricoverati in questa struttura. Ha fatto un'ordinanza. Questa struttura è stata oggetto di controlli non soltanto dei servizi veterinari che ha revocato le autorizzazioni, ma dalla Guardia Finanza della Finanza nel 2001, dai Carabinieri NAS nel 2001, dai Carabinieri NAS nel 2006, dai Carabinieri NAS nel 22 agosto del 2006, dalla Polizia Provinciale il 13 febbraio 2008. Soltanto il Corpo Forestale dello Stato ha effettuato un sequestro sanitario penale il 30 aprile 2005 e che ha affidato al sindaco pro tempore, perché si era dimesso il vecchio sindaco in quanto candidato alle elezioni regionali, alle votazioni regionali. Successivamente al sequestro, il sindaco pro tempore affida alla stessa associazione che era stata sequestrata la gestione del canile per ulteriori 30 giorni. Successivamente il commissario prefettizio, con propria ordinanza prefettiva, rinnova alla stessa associazione che gestiva il canile per ulteriori 60 giorni la gestione della struttura. Adesso, in totale quello che possiamo capire dal suo racconto è che tanti enti sono intervenuti e hanno detto: questo canile non va bene, giusto per far così capire com'è. Così com'è. C'è stato anche uno sforzo da parte di qualcuno di far cambiare le cose, però purtroppo non ci si è riusciti. La situazione era rimasta. Ora io tanto sbagliato. Purtroppo, scusami Rosita, aspetta, purtroppo l'amministrazione... Diceva dottor Buttiglione, purtroppo diceva lei l'amministrazione è andata avanti. No, purtroppo le amministrazioni hanno continuato, anche perché c'era questa ordinanza del sindaco che ha detto prendiamo i cani e buttiamoli lì dentro. Potevano entrare ulteriori cani. Figuriamoci. Soltanto il corpo forestale il 20. Ok. No, questo un sequestro penale. Ora che cosa è successo? Il nuovo sindaco che si è insediato, che ha fatto un'ordinanza in cui ha tolto la gestione alla vecchia associazione APAC e ha affidato la gestione a due associazioni. Aspetti, abbiamo perso la comunicazione. Quindi il nuovo sindaco ha fatto qualcosa di buono. Sì. Abbiamo il Giuseppe, nome. Ci sei tu? Sì, ci sono. Ci okay, no, perché è caduta la linea con col dottore dell'ASL, però avevamo capito. Adesso poi cercheremo di chiamare anche il sindaco per sentire appunto che cosa si può fare. Io dico solamente una cosa, poi dobbiamo dare un attimo una pausa. Noi cercheremo di monitorare, visto che abbiamo l'opportunità a Radio 24, di richiamare e vedere se cambiano le cose. Così vediamo se questi sindaci, se si espongono anche pubblicamente per vedere di sistemare le cose nel più breve tempo possibile, si danno da fare, e cerchiamo di dirvi nel tempo chi ascoltate se c'è un cambiamento. Questo è molto positivo qui al canile di Cerignola. Ok, grazie Giuseppe. Grazie Giuseppe. Grazie a voi. A presto, ciao. Ciao. Ciao. Noi ci sentiamo subito. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Eccoci sempre in linea. Abbiamo in linea il sindaco Franco Metta. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Sindaco di Cerignola. Cerignola, sì. Ovvero il sindaco che ha in 10 settimane fatto svoltare una situazione, la situazione di un canile Lager che durava da più di 10 anni. Ho detto bene? Beh, diciamo meno di 10 settimane. Meno di con 10 un po' settimane. Di vanità lo dico. Fa bene, fa bene. Fa bene. E noi siamo felici di poterla far parlare proprio perché lei possa dare buon esempio a altri. Quindi quello che è successo è che per 10 anni le vecchie amministrazioni non si sono occupate così bene di questo canile. Abbiamo detto che c'erano addirittura dei topi giganti che prendevano i cuccioli appena nati e se li portavano via. Abbiamo detto che c'erano cani che non mangiavano tutti i giorni, dimagriti, decessi, soldi chiesti al comune per 400 cani quando invece erano soltanto 230. E invece adesso stiamo dando una bella svolta. Nella sua visione, che cosa vede lei nelle prossime... Il futuro, nei qual anni? È il prossimo step? Guardi, adesso dobbiamo innanzitutto alleggerire le presenze nel canile, ci sono 100 cani che andranno in un canile perfettamente omologato, perfettamente in regola con la normativa. Gli altri 140 cani che resteranno andremo a svuotamento progressivo con una campagna di adozione che intendiamo portare in maniera massiccia, e io ovviamente approfitto anche dell'occasione radiofonica per lanciare. Fa bene. Lo svuotiamo e lo trasformiamo, non quello, individueremo un'altra struttura, sì, e immaginiamo un rifugio comunale per i cani in stato di abbandono, in stato di necessità per malattia o per qualunque altra causa, con un soggiorno temporaneo e poi vengono adottati o vengono restituiti al territorio. Bene, grazie sindaco. Senta, abbiamo purtroppo poco tempo, ma lei faccia conti su di noi. Noi abbiamo una mail, chiedimi se sono felice, @radio24.it. Se ha bisogno che diamo una mano per sensibilizzare, siamo a disposizione. Grazie mille. Approfitterò senz'altro, grazie a voi. Grazie. Franco Metta, Metta in lingua Pali, la lingua del Buddha, significava gentilezza, amorevole. Ed ecco noi oggi, io una persona che io stimo e amo moltissimo, la fortuna di frequentare proprio, guarda, lo dico godereccia, Marisa Laurito. Ciao ragazzi! Buongiorno, va che solarità subito. Davvero, davvero. Tu veramente meravigliosa trasmissione, vi vorrei dare una medaglia al valore. Grazie. Amore, grazie. No, la medaglia devono essere date anche a te, tante figurati. E a tutti quelli che amano gli animali e che li difendono. Esatto, tante perché, medaglie. Perché tu sei un'altra molto sensibile, attenta, tu sei veramente una persona molto generosa, io lo dico sempre, solare, generosa, se poi aiuti chiunque e hai una grande passione per i cani. Ma sai, una passione per i cani soprattutto, però per tutti gli animali, per tutti quelli indifesi, perché veramente non possono parlare, anche se basta che ci mettiamo in connessione, in connection, esatto, che ho usato una parola da computer che è giusta, con loro, e li possiamo capire, possiamo capire, sì, tutto quello che gli passa per la testa. Vedi, io quando... ho il mio cane che si chiama Giovanni e ci facciamo delle dichiarazioni d'amore. Sì, prima c'aveva un mastino napoletano, perché era un po', sì, banale avere il mastino napoletano per te che sei napoletana, e l'ha chiamato, no, ovviamente. Ma me l'hanno regalato. Ah, ecco, io non compro mai cani di razza. Io raccolgo cani dalla strada. Infatti. Questo mastino napoletano però mi è stato regalato ed è stata una vera gioia. Beh, devo, sì, dire, che si chiamava Gennarino. Si chiamava Gennarino. E pesava quanti chili? Un'ottantina. Sì, quando perché... camminava in casa si sentiva proprio il passo dell'uomo. È stato l'unico vero uomo della mia vita. Però non lo posso dire a alta voce, se no Giovanni si secca perché le sta già guardando male. Amore. Però Gennarino, quando camminava in casa, si sentiva tum, tum. Te credo, tum. Tanta lui, sai, era buonissimo, però se qualcuno osava solo guardarmi male, beh, era morto. Immagino. Allora io Marisa ha questo rapporto, veramente, lo vedi, c'è lei e c'è il cane, non te la immagini scissa, separata dai propri cani, perché tu, no, piuttosto ti fai lunghissimi viaggi in macchina da sola, ma guidando, sai, pur di portare il cane. Le tournée, esatto, ha fatto Giovanni anche, no? Giovanni anni è un attore consumato ormai, ha fatto pubblicità, tournée, però ti devo dire la verità, adesso è un po' vecchietto, io sono disperata, insomma comincia ad accusare il colpo e alle volte nel tournée mi guarda, raramente non lo porto, quando vedo proprio che sta distrutto, perché sai che io sono, come dire, che faccio 8.000 cose al minuto, cioè il pepe dappertutto, e allora vado in tournée, faccio il viaggio, poi faccio lo spettacolo, poi andiamo a cena, poi magari vado a vedere una piazza di notte che mi piace, e lui sempre come mi guarda e alle volte dice con gli occhi, proprio dice, io non ce la faccio più, ma quando vogliamo andare a dormire No, perché tu sei disperato, certe perché volte. Io ho scoperto Marisa, cioè veramente vai a fare rafting, anzi che eravamo rimasti che una volta ci dovevamo venire anche noi a fare poi insieme. Hai nuotato con le iguane, con cosa hai nuotato? Quando mi hai raccontato? No, ma non è che ho nuotato con le iguane perché ci avevo piacere, io no, mi sono però buttata dopo il rafting in questo fiume indonesiano che si chiama La Jung, e perché ho detto l'ultimo pezzettino me lo faccio a nuoto, e mentre stavo nuotando accanto a me si è posizionata un'iguana e io non sono morta per puro miracolo, non avevo mai visto un'iguana molto grande nella mia vita veramente, e nuotavamo accanto, una accanto all'altra, cioè assieme. E ogni tanto ci guardavamo e io la guardavo dicendo ti supplico di non farmi niente perché io ti voglio bene, non ti faccio ti niente bene. E con gli occhi mi ha accompagnata dove? Perché mi ha proprio accompagnata, voleva vedere se arrivavi sana e salva, un bodyguard. Sì, mi ha accompagnata quando io sono salita su questa spiaggetta del fiume e poi ha proseguito. Ecco, però è stato molto bello perché veramente, ragazzi, è stata un'esperienza, perché era proprio attaccata a me, non è che nuotava, è come quando due amiche si fanno una bella nuotata insieme, ecco. Quindi non è stato proprio male. E non avevo esperienza delle iguane, quindi non sapevo che... No, infatti, a parte che volevo dire che con Marisa qualche mese fa abbiamo fatto tutta una battaglia telefonica per aiutare questo piccolo comune, ti ricordi? Mamma giù, che aveva questi cani, sì, che il sindaco li buttava dietro nello sgabuzzino. Questo imbecille. Anzi, dovremmo chiamarli. Invece è stato molto bravo il sindaco di Cerignola, di cui abbiamo parlato prima di te. Straordinario. Perché sta aiutando a sistemare la situazione lì. E invece, dopo di te, volevo sapere cosa ne pensi. Parleremo... Sindaco straordinario, io gli mando un bacio proprio nel mio cuore. Bene. Allora, mentre dopo parleremo dei circhi, per togliere gli animali dai circhi, abbiamo scoperto che ovviamente ci sono sempre questioni di soldi, ecco perché non mollano gli animali nei circhi. Sì. Ma tu che cosa ne pensi riguardo circhi, corride, delfinari? Sai, allora, tutto... vabbè, ma che cosa vuoi che ne pensi? Penso malissimo, nel senso che capisco, è una cosa che riguarda ormai il Medioevo, perché quando mi dicono i bambini vengono, si divertono, vedono animali che non vedrebbero mai, ma anche chi se ne frega di vederli, non è che la vita cambia perché tu vedi degli animali, come dire, fare giullare, che stanno nella savana, nella savana e chiusi, sono purtroppo animali che come tanti vivono in cattività e purtroppo non è che saranno felici di stare in una gabbia, quindi cosa vuoi che ne pensi? Poi vabbè, la corrida non ne parliamo proprio, io proprio vorrei che sia buona. Ne hai mai vista una? Oggi, ieri, sì, purtroppo, guarda, io ho girato un film con Banderas, Antonio Banderas, e lì mi faceva tutta una pippa ad un bar dove mi diceva che non è vero che il toro sta molto male, sì, perché sai che gli mettono queste banderie per fargli perdere forza e quindi anche sangue, perché diceva se tu metti a combattere un toro e un uomo perde l'uomo. Eh beh, grazie. Ma io dico ma perché devono combattere? Per esempio, perché dice che il toro così vive un giorno, combatte, vive da, ma senti... così con grande dignità. Allora, insomma, niente. Ma con questo Banderas per me ha finito la carriera. No, ma no, dopo questa pippa sono andata a vedere per forza una corrida. Vabbè, guarda, il toro secondo te dove è venuto a morire? Proprio sotto da me. Dio io mio. Sono svenuta, ma non sto giocando. Ma veramente? Sono svenuta, mi hanno portata fuori in braccio. Ci credo. Perché non ci... adesso mentre te lo sto dicendo mi sto sentendo male, perché è una delle cose più cruente, più imbecilli e più inutili che io abbia mai visto nella mia vita. Sì, infatti. Punto. Infatti sappiamo che a Barcellona le corride non si fanno. Sì, a Barcellona l'hanno, le hanno bandite, non le vogliono più fare. Tra poco ne parleremo. Infatti. Finalmente qualcosa accade di tanto in tanto. Sì. Poi ho sentito ieri sera o l'altra sera, non mi ricordo, parecchi giorni, non mi ricordo più perché sono un po' rinco, però una trasmissione con Cruciani, la Zanzara, dove c'era, dove si parlava della caccia, e dove praticamente c'era uno che diceva che non sopporta giustamente la caccia, e che se succede qualcosa ai cacciatori se la cercano. Infatti, è giusto, sono d'accordo, certo, anch'io. Se uno si porta, anch'io, se uno si porta il fucile, e invece Cruciani dice allora sei contento per quello, si è ferito, si è ammalato. Ma sì, ma... Cruciani, te lo voglio dire anch'io che no, purtroppo non t'ho potuto chiamare, sono contenta anche io, non solo quello lì che tu gli hai fatto due palle, sono felice anche io, Cruciani. Grande. Se qualcuno ti fa male, sono felice. Grande, no. Marisa, però Cruciani secondo me fa un po' la parte, io non credo che oramai è entrato parte, nel personaggio. Sicura, è entrato nel personaggio, però voglio dire, però ti dici, invece di dire ste cose, stai un attimo anche dalla parte giusta. Sono d'accordo ma con te. No. No, ma sai, ma come si può andare? Io non capisco una cosa. Puoi chiamarlo questi... sport? Ecco, brava, no, ma poi soprattutto questa cosa terribile, tu dici mi diverto, mi vado a divertire uccidendo qualcosa. Ma come ci si può divertire così? Oppure mi diverto e vado a vedere un toro che muore. Sì, certo. Ma fallo tu, ma mettiti tu al posto del toro. Sì, esatto. Ti faccio vedere come ti diverti. Oppure giocate, mi pare. Ma guarda, c'era un gioco fantastico, si chiamava Goccia, che ci si sparava addosso palline di vernice, ci si metteva le tute e si giocava in mezzo ai boschi. Si volete sparare? Goccia. Goccia, scritto in inglese. Ah, goccia. Gioco. Esatto, e quindi era bellissimo. Allora, se uno si vuole sparare, vuole giocare a sparare, sparatevi fra la stessa specie, perché dobbiamo andare noi a sparare? Brava, Marisa, brava. Sei un mito, ti voglio bene. Grazie Marisa, non ragazzi, vediamo l'ora di vederti. Una voce meravigliosa, devi stare attenta perché quella chiappa è grave. Lo so, ma smettete. Poi un giorno ti dirò, ti farò vedere cosa ha detto la mia estetista sulla voce di Angelo. Che ma diamo le notizie sul traffico, che è meglio. Ciao Marisa. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Avete sentito questo rumore? Questo così? Provate, facciamo un quiz. Provate a indovinare che gesto che mi ha fatto Aira. Facciamo un quiz per la prossima volta. Scriveteci a chiedimi aspetta, devo dare la mail. Chiedimi se sono felice @radio24.it, perché punto it, perché non l'avevamo ancora detto oggi. Allora in apertura abbiamo detto che il mondo la prospettiva del cane, ma anche degli altri animali. Abbiamo appena finito di parlare con Marisa Laurito dei tori nelle corride, però non ci sono soltanto i tori, ci sono anche gli animali nei circhi, che a te so che stanno molto a cuore. Sì, non solo gli animali nei circhi, ci sono tutti i delfinari, ci sono tutte le varie usanze che io trovo macabre, come la mattanza dei delfini in Giappone, in Danimarca. Però oggi ci concentriamo sui circhi, perché io ho vissuto, come molti sanno, tanti anni fa, 3 anni in un circo, e quindi parlo anche con cognizione di causa. Allora, ho trovato un articolo dell'Espresso di marzo del 2015 che mi ha finalmente chiarito per quale motivo i circhi italiani non mollano gli animali. Ovviamente io sono contro l'uso degli animali nei circhi, nei delfinari, ribadisco, per le corride, contro tutto l'uso orrendo che si fa sugli animali. No, sono curioso perché sai, siamo nel 2015, cioè 2015 ancora gli animali nei circhi, io dico, è follia. No, infatti, allora c'è un articolo dell'Espresso molto interessante che titola "Animali maltrattati con i soldi pubblici", è qui che si è svelato finalmente perché i circhi italiani non li lasciano, e vi daremo poi due dati. La cosa che volevo dirvi è che io, quando ho vissuto al circo, oggettivamente non vedevo frustare, picchiare, maltrattare gli animali, ma basta farli vivere in una condizione di una gabbia di 1 metro per 2, fosse anche di 4 metri per 5, perché poi le leggi sono cambiate, ma in realtà una tigre, un orso polare, i babuini, ho visto elefanti, leoni marini. i leoni. Cosa ci fa un leone, sì, marino? Cioè, qualunque, quando non possono, perché noi viaggiavamo ogni 3-4 giorni, a parte quando facevamo grandi piazze, poi vivono dentro i camion, sotto il caldo del tendone. Cioè, non, quello vuol dire, quello è già un maltrattamento, anche se poi uno gli dà tanto da mangiare, no, gli accarezza, guarda, gli accudisce. A parte la logica, no, che ci dice questo, è facile, perché quando tu vai a vedere queste carovane che si spostano, gli animali fermi, li vedi che ciondolano. E sì, quel, esatto, ciondolare è come il ciondolare dei matti, quando diciamo noi, è quello, è quella cosa che ti fa impazzire. Da esaurimento. È da esaurimento, quel continuo ciondolare ha un nome tecnico che è stereotipia, ed è un criterio per capire se un animale sta bene o sta pessimamente. Ora, noi abbiamo chiesto in questi giorni, nella settimana precedente, se qualcuno dei circhi voleva venire a parlare con noi. Non si è presentato nessuno, ma siamo disponibilissimi domenica prossima, certo, a ricevere le vostre telefonate per avere un contraddittorio. Però intanto io vi dico i dati che abbiamo noi oggi, e dice questo l'Espresso, per esempio: il dossier della Lega Antivivisezione racconta la vita quotidiana di tigri, leoni, elefanti, orsi sotto i tendoni italiani, tra violenze, catene e sevizie, e nonostante indagini e condanne, il Ministero dei Beni Culturali continua a finanziare con milioni di euro. A parte che mi fa assurdo pensare che sta sotto i beni culturali e si continua ad appoggiare questo, quindi, massacro. Quindi abbiamo gabbie, catene, cibo scarso, violenza fisica, viaggi infiniti, temperature proibitive. Il destino, scusami, di elefanti, tigri, orsi, cammelli nati liberi spesso. Tutto questo per la modica cifra di 27 milioni di euro, perché qui il gap. Allora, se i circhi italiani tengono gli animali, prendono tanti soldi. Ora, i Cirque du Soleil in tutto il mondo dimostrano che sono famosi, fanno successo, ci sono solo persone, non ci sono animali. Vabbè, abbiamo anche artisti veri, però, sì. Perché non basta baccagliare qualcosa e far vedere, esatto, l'elefante di turno, la scimmietta che indossa il cappellino, perché questa è la verità. Sì. Cioè, piuttosto che questi qua davvero impegnarsi e diventare bravi artisti, approfittano degli animali. Tra l'altro, 27 milioni di euro in un anno, cioè, cittadini, le vostre tasse per 27 milioni di euro, che sarebbero potuti essere stanziati per l'istruzione, per aiutare delle famiglie italiane in difficoltà, sono andati ai circhi con il maltrattamento degli animali. Perché se tu mi tieni una tigre in una gabbia, me la fai girare, che tu la frusti o no, quella tigre è maltrattata. Pienamente d'accordo. Allora, l'altra beffa è questa: che tutti quei circhi che sono stati condannati perché era stato dimostrato che venivano maltrattati gli animali che erano tenuti dentro questi circhi, non solo hanno continuato a prendere le sovvenzioni dello Stato, 1.884.000 euro, 1.447.000 euro. Circo Medrano ha preso 1.884.483 euro, nonostante il processo per maltrattamento. Stesso identico caso all'American Circus: 1.447.228 euro e accuse di violenze. Darek Stogni ha incassato 518.000 euro nelle locandine, lo mette in evidenza, una tigre per i più importanti circhi del mondo. E insomma, e via e via. La beffa assurda è anche questa, cioè che quando questi vengono condannati, gli animali stanno male in un circo, no? Che cosa vengono maltrattati? Esatto. Quindi cosa succede? C'è un processo. Ci si accerta di questa cosa. Vengono condannati e l'animale viene dato in custodia agli stessi che lo maltrattavano e pigliano in più intorno ai 400.000 euro. Ma ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? Ora mettetemi il bip, quello che mi pare, ma cioè... quindi uno va in un circo, vede che gli animali sono maltrattati, li sequestra, no, perché le ordinanze dicono sequestriamo gli animali, ma non sanno a chi dare perché non ci sono degli adeguati centri di recupero. A chi li danno? Allo stesso circo. Indovinate cosa succede? Per via del fatto che, essendo sequestrati, devono ricevere sovvenzioni, il circo prende i soldi per tenersi gli animali sequestrati da lui stesso. È follia. Cioè, ministro, come si chiama il ministro che potremmo chiamare? Io, cioè, voglio capirla, sì, ministro, sta roba qua. Attimo, ma chi è a favore dei circhi? Ma ci parli, ma venga qui. Ma io voglio proprio parlare, voglio capire perché sei a favore dei circhi e di questo scempio, tutti sti soldi buttati via. Ma poi oggi, guarda, cultura. Una, come ci diceva Marisa, non è nel circo che tu capisci come vive un animale, perché se tu vuoi capire che cos'è una giraffa, che cos'è una scimmia, non la devi vedere in un circo, la devi vedere lì nel suo habitat. Oggi abbiamo dei meravigliosi documentari fatti dal National, sì, Geographic. Oppure ti fai dei viaggi. Oppure ti fai dei viaggi, via dicendo. Questi sì ti fanno capire che cos'è la vita di questi animali. Allora, non capisce, non ti arricchisce culturalmente se questi animali li vedi in un circo o in una pista. Allora, il ministro che possiamo chiamare e vedere di rintracciare per domenica prossima è Dario Franceschini. Dario Franceschini, per capire per quale motivo facciamo qualcosa, anche perché ci sono invece diversi paesi che stanno chiudendo le corride, per esempio a Barcellona, stanno chiudendo le piazze e i circhi. Anche in Italia ci sono alcuni sindaci che non prendono i circhi con gli animali, perché in questo articolo stesso è detto che oramai ci sono diversi sindaci che si rifiutano di far venire i circhi con gli animali. Il circo è in perdita, sta perdendo. Allora, vuoi fare uno spettacolo? È vero che è meravigliosa la vita del circo, ma tu uomo devi imparare a fare il giocoliere, il trapezista, l'antipodista, fai tu, fai come fanno i Cirque du Soleil. Quindi questo è il nostro appello, perché le soluzioni ci sono e nell'articolo ci sono, dice Rosetta, mi aiuti, chiediamo ad un elefante se è felice? Sì, chiediamoglielo. Intanto chiediamo a voi. Stick that hook in him sometimes. When you hear that screaming, then you know you've got their attention. Ok. Quindi qui abbiamo avuto un piccolo assaggio di che cosa è la vita di un elefante durante il training e il suo addestramento. Le urla che sentivamo erano di un elefante e del suo addestratore che, arrabbiato, inveiva contro l'animale e faceva i suoi... Scriveteci a chiedimi se sono felice @radio24.it. Alla prossima!